Nell'ambito della religione cattolica romana, di Maria se ne è parlato e se ne parlerà ancora per molto tempo, tanto a lungo quanto i musulmani parlano e parleranno di Maometto. Da quando nel 1950 il cattolicesimo romano ha proclamato il dogma dell'assunzione di Maria in corpo e anima, alla gloria celeste, al punto da affermare che De Maria non quam satis, cioè su Maria non si dirà mai abbastanza, questo atteggiamento nei confronti della Vergine è coerente. Da un certo punto di vista non ci sarebbe nulla di male perché la figura di Maria non è una invenzione ma è descritta nella Bibbia, seppur non dettagliatamente in confronto ad altre donne. Il punto di divergenza tra l'opinione del cattolicesimo romano e i testi della parola di Dio al riguardo sta nel fatto che la religione ha oltrepassato il limite della valutazione al punto di definire questa donna la madre di Dio. Infatti così cita il documento del Concilio Vaticano II: per questo santo concilio è di grande gioia e consolazione che vi siano anche tra i fratelli separati di quelli che tributano il debito di onore alla madre del Signore Salvatore, specialmente fra gli orientali, i quali concorrono nel venerare la Madre di Dio sempre Vergine, con ardente slancio ed animo devoto. Lumen Gentium. Paragrafo 69. Proprio per questa prospettiva su Maria, il Papa Josef Ratzinger, cioè Benedetto XVI, ordina ai suoi fedeli di tornare a Maria se vogliamo tornare a quella verità su Gesù Cristo, sulla Chiesa, sull'uomo. E per i vescovi Maria deve essere più che mai la pedagogia per annunciare il Vangelo agli uomini d'oggi. Dunque, chi ha posto fede in Cristo quale Salvatore e Signore e chi ha accettato e accetta la parola di Dio come l'unica autorità in materia di fede e di condotta non può accantonare un argomento del genere, perché se Dio ha una madre, comunque noi concepiamo questo aspetto, allora è inevitabile indirizzare la nostra intenzione soprattutto sulla madre e non su Dio. È evidente che il cattolicesimo non sostiene che Dio ha una madre, anche se ha promulgato il dogma che Maria è la madre di Dio, perché solo Dio è eterno e non ha avuto inizio. Ma non è possibile negare che il dogma della maternità divina, assieme agli altri tre dogmi mariani, quali la verginità perpetua, il concepimento senza macchia del peccato originale e l'assunzione in cielo, sia un elemento deviante della fede cristiana in tutti i sensi. Ogni persona, anche poco informata, sa che il primo comandamento di Dio è quello di non avere altre divinità alle quali offrire. Gesù stesso ricordò questo comandamento al diavolo quando gli chiese di adorarlo, dicendo: «Vattene, Satana! Sta scritto, adorerai il Signore Dio tuo, e a Lui solo presterai culto». Questa traduzione dal greco è riportata dalla Bibbia Nuovissima dai testi originali terzo, il Nuovo Testamento, Cisinello Balsamo, edizioni San Paolo 1991. Se la volontà di Dio è quella di rendere il culto solo a Lui, perché allora rendere il culto a Maria? Ho avuto spesso occasione di parlare con dei cattolici, i quali affermano che essi non prestano il culto a Maria ma la onorano. E questo non è vero. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo al paragrafo 971 le seguenti parole: «La pietà della Chiesa verso la Santa Vergine è elemento intrinseco del culto cristiano. La Santa Vergine viene dalla Chiesa giustamente onorata con un culto speciale. In verità, dai tempi più antichi la Beata Vergine è venerata con il titolo di Madre di Dio, sotto il cui presidio i fedeli, pregandola, si rifugiano in tutti i loro pericoli e le loro necessità. Questo culto, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo, incarnato come il Padre e allo Spirito Santo, e particolarmente lo promuove. Esso trova la sua espressione nelle feste liturgiche dedicate alla Madre di Dio e nella preghiera mariana come il Santo Rosario compendio di tutto quanto il Vangelo. Dunque il cattolicesimo romano dichiara che a Maria si offre un culto, anche se lo definisce un culto speciale. Ma un culto speciale rimane sempre un culto. Se io affermo che posseggo un libro speciale, tutti comprendono che posseggo comunque un libro e non qualcosa d'altro. Se poi il culto differisce essenzialmente, allora non è più culto. Così, Onorare Maria con un culto speciale significa esprimere un atto religioso che deve essere dato solo a Dio. Come è arrivato il cattolicesimo romano a trasgredire il primo e grande comandamento? Come può il romanesimo indurre milioni di persone a commettere un madornale errore di fede, permettendo alla propria coscienza di essere serena? La risposta è ovvia. Se Maria è la madre di Dio, chi ha il coraggio di non prestarle un culto? Se si onora il figlio, perché non onorare con un culto la madre? È vero che il cattolicesimo non sostiene che Dio abbia una madre, ma con il titolo di Madre di Dio, ogni perplessità di coscienza viene spenta. Ecco perché il titolo dato a Maria di Madre di Dio, anche se fosse legale, non è in nessun modo legittimo, ma non è neppure legale, dato che la parola di Dio definisce Maria la madre di Gesù. Niente di più. Non credo che si sia capito il danno nefasto conseguente all'avere dichiarato Maria la madre di Dio, perché con tale definizione essa è stata esaltata al di sopra di ogni santo, istituzione, apostolo o espressione dottrinale, al punto che molti cattolici romani la mettono allo stesso livello delle persone della Trinità. È vero che la definizione Theotokos, cioè Madre di Dio, che risale al Concilio di Efeso 431 e di Calcedonia 251, fu originariamente usata nel contesto della Cristologia per affermare la vera umanità di Gesù Cristo, ma col tempo essa subì un cambiamento di posto radicale, servendo alla fine per affermare che Maria è la Madre di Dio. E così Maria è stata fatta diventare Regina del Cielo, Madre della Chiesa, Regina di tutti i Santi, Corredentrice, Mediatrice, colei che intercede continuamente a favore dei credenti. Eppure, non esiste una sola base biblica per simili titoli, come quella di essere la Madre di Dio. Sono state le speculazioni filosofiche unite a quelle religiose che hanno portato il cattolicesimo romano a creare la mariolatria. Sostenere che Maria è la madre di Dio perché ha partorito Gesù, il quale, oltre ad essere pienamente uomo, è anche Dio, è un ragionamento che non regge anche ai più semplici. Se Maria è diventata la madre di Dio perché ha partorito Gesù, allora noi possiamo affermare che Dio ha dormito, che i discepoli di Gesù parlavano con Dio e i contemporanei di Gesù hanno visto Dio. Con la stessa filosofia del cattolicesimo romano si può sostenere che Giovanni ha chinato il capo su Dio, che Giuda ha tradito Dio e che i romani hanno crocifisso Dio. Ogni estremo va rifiutato. Perciò è vero che Maria ha partorito Gesù quale uomo e Dio, ma mentre ha partorito il corpo di Gesù Maria non può avere generato la divinità di Gesù. Gesù fu generato dallo Spirito Santo, Maria gli ha dato l'elemento umano. La distinzione è d'obbligo, diversamente dobbiamo anche parlare della nonna di Dio e dei suoi parenti. Poiché ogni espressione ha un impatto psicologico sulla mente, dichiarare Maria madre di Dio è devastante per chi professa una fede in Cristo, perché questa definizione è talmente particolare da impedire all'uomo comune di cogliere l'importanza del significato in gioco dietro i termini. Quando il cattolicesimo romano afferma che Maria è madre di Dio, significa che l'oggetto del culto non è solo Dio, ma anche Maria con i santi canonizzati. Chi non ha compreso questo non ha compreso il cattolicesimo romano. Chi non lo vuole comprendere nega l'evidenza. Purtroppo la mariolatria è entrata lentamente anche nel campo evangelico. In certi paesi latino-americani, molti si sono convertiti al Vangelo, ma amano ancora la Vergine Maria introducendo una nuova religiosità. Un pastore metodista, Charles Lacey, ha fondato la Società Ecumenica della Beata Vergine Maria. Per molti cattolici convertiti al protestantesimo, vi è un nuovo riconoscimento del posto di Maria nella vita religiosa, perché rimangono ancora culturalmente e emotivamente attaccati alla Madre di Gesù in modo cattolico. Nella Chiesa di El Amor de Dios, a Chicago, negli Stati Uniti, ci sono due statue di Maria ai lati dell'altare con rose rosse ai piedi. I credenti superficiali animati da buoni sentimenti ma di scarsa conoscenza biblica e di impegno e fede superficiale non potranno resistere alle tentazioni del compromesso e dell'errore che affronteranno quando l'ecumenismo non solo gerarchico ma anche sentimentale diventerà la misura della loro fedeltà a Cristo. Si cercano sempre nuove spiritualità e nuove religiosità, ma la fede dei santi è stata tramandata una volta per sempre tramite la parola di Dio. Alcuni protestanti sperano sempre che il cattolicesimo cambi, ma il dialogo con altre confessioni di fede, come ha detto Papa Benedetto XVI, può approfondire e purificare la fede cattolica, ma non può, e sottolineiamo non può, cambiarla nella sua essenza. Il Papa disse ancora: dobbiamo avere il coraggio di ridire chiaro che, presa nella sua totalità, la Bibbia è cattolica. Accettarla come sta, nell'unità di tutte le sue parti, significa accettare i grandi padri della Chiesa e la loro lettura. Dunque, significa entrare nel cattolicesimo. E, giunto da tempo, il momento che i protestanti dichiarino false le dottrine non bibliche. Oggi esistono delle persone non cattoliche, non dei protestanti. Anzi, oggi ci sono dei protestanti che tendono a diventare cattolici. Se fosse questione di cambiare religione, nulla di male, perché una vale l'altra. Ma poiché si tratta di persone che hanno professato e professano di essere figli di Dio mediante la nuova nascita da adulti, allora si ripropone con urgenza la necessità di condannare tutta la mariologia cattolica. La madre di Gesù, secondo la descrizione biblica, non corrisponde alla Maria papale, variata al punto da arrivare a essere chiamata la sposa dello Spirito Santo. Il cattolicesimo romano di Maria dice di tutto e di più, ma dovrà rendere conto a colui che ha ingiunto: non avere altri dì nel mio cospetto. Per il cattolicesimo, però, Maria non è un dio fasullo, ma solamente la madre di Dio. Può esistere qualcosa di così terrificante, la cui posizione sia più in alto di Dio? Settembre 2005, Ellero,